strada, casa in un vicolo, bottiglie vuote, un cocktail da panico, ne ha visti sorrisi e lacrime amare, nel dormiveglia, amici partire, note stonate, consumate all'eccesso, cercando la fine dentro l'ultimo sorso, eppure non ha nulla più da temere, non fa differenza tra svegliarsi e dormire, le ore son suoni, scandiscono il tempo, bicchiere pieno, la luce è un miraggio. Poeta da strada, vita al confine, sul molo osservando le navi arrivare, fotografie nero su bianco narrano i tempi in cui il cuore era fermo, pagine bianche come un diario di bordo, distillano i sogni di ricordi allo sbando, eppure non ha nulla più da temere, non fa differenza tra svegliarsi e dormire, le ore son suoni, scandiscono il tempo, bicchiere pieno, la luce è un miraggio. Adesso lì giace, nessuno lo muove, sembra che dorme in fondo al bicchiere, le ore son suoni, scandiscono il tempo, bicchiere pieno, la luce è un miraggio.